e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te Deborah. Buona giornata. Anche sì, a chi ci sta ascoltando, certo, magari, non so, dalla casa, dall'ufficio, dall'auto, scrivetecelo, magari state andando in vacanza, magari oppure ci siete al lavoro. Già, esatto, fortunelli. Tra poco. Tra poco noi partiamo con il racconto di tante cose interessanti. Volevi già far sapere che mi sto involando anch'io? No, il conto alla rovescia però, sono, ecco, i giorni più belli. Guarda che io non controllerò quello che farai settimana prossima, lascio i nostri amici da casa in ottime mani, per cui poi l'ultima settimana ci sarai. Tu sai che l'amicizia ti rende. Esatto, rende... è stato un ottimo investimento, il migliore fatto negli ultimi 3 anni. Quanto rende? Rende parecchio e soprattutto alla ricerca. Tra l'altro noi sappiamo che ci sono dei centenari che vivono in Sardegna. Bene, la notizia è che questo italo-americano, è un manager però negli Stati Uniti, ha rilevato la banca del genoma che ha archiviato il DNA di quasi 13.000 abitanti dell'Ogliastri in Sardegna. È una delle aree in cui si vive di più al mondo, dove una persona su 2.000 raggiunge i 100 anni, e circa 5 volte di più rispetto, certo, alla media dei paesi sviluppati. Quindi con il mio 22% che ti regalo con l'amicizia ti trasferirai anche tu in Ma Sardegna. Ma secondo te, trasferendosi adesso in Sardegna, noi possiamo acquisire questo elisir di lunga vita e campare fino ad oltre 100 anni, o bisogna essere nati là, avere come delle discendenze precise? Ci vuole tutto, no? Un po' non di quel che barare, ci vuole, non possiamo come si barare. Dice, Comunque è un'operazione, visto che dobbiamo anche sempre sollevare qualche aspetto di denari, che è costata all'azienda biotech inglese circa 258.000 euro. Non è stato neanche un investimento. Perché non l'abbiamo fatto noi? Ma guarda, mi sono lasciata sfuggire questa occasione. Adesso metto alla ricerca di qualcos'altro. E quindi? Ti troverò i tuoi occhi neri. Senti, milioni di occhi neri saranno belli più di ieri. Bene. Incontrarci tra 100 anni, esatto, quindi sarà possibile. E intanto io direi che invece possiamo far subito, come dire, espletare subito i nostri compiti della mattinata e cominciare con le notizie. Come sempre un'occhiata all'andamento dei mercati finanziari. Allora, abbiamo naturalmente ancora un bel po' di nervosismo determinato da queste condizioni geopolitiche molto suscettibili. Adesso ci si è messa negli ultimi giorni, come sapete bene, la crisi turca. Ieri la borsa turca è scivolata del 7%, ha recuperato la lira e ha provocato naturalmente l'inevitabile nervosismo sui mercati finanziari internazionali. L'America però ha chiuso bene ieri sera con nuovi record sia su Dow Jones che Standard & Poor's, settima seduta in rialzo per il mercato americano. Anche oggi una giornata fitta di notizie dagli Stati Uniti, perché sono in corso di diffusione molte trimestrali. Ieri sono stati pubblicati i dati di Yahoo e IBM, oggi tocca a Johnson & Johnson, e poi abbiamo i dati sull'andamento del mercato immobiliare, l'avvio di nuovi cantieri edili. Lo anticipo perché in realtà noi nella seconda parte della trasmissione parleremo anche di mercato immobiliare italiano, facendo un punto della situazione sui rapporti più importanti che sono usciti nelle ultime settimane e magari dando un'indicazione a quegli ascoltatori che stanno accarezzando l'idea di fare l'investimento nel mattone da qui al prossimo autunno. Magari si stanno guardando attorno, proprio monitorando un po' i prezzi e la discesa che hanno subito negli ultimi anni, e quindi indicazioni pratiche per poter effettuare questo investimento nella piena consapevolezza. Tornando in borsa, l'Europa è negativa, oggi abbiamo un ribasso dello 0,8% a Parigi, Francoforte sta perdendo l'1,14%, Londra perde lo 0,36% e Milano perde un punto percentuale. Abbiamo tanti titoli da tenere sotto i riflettori. Allora, qualcuno che ieri è sceso molto oggi recupera: Yoox Net-a-Porter, per esempio, il gruppo online nel settore della moda, guadagna un punto. Poi Saipem più 0,6, continua a correre Telecom Italia più 0,6%. Per il gruppo ieri c'è stata una promozione di giudizio da parte di Mediobanca, una raccomandazione di acquisto che oggi continua a sostenere il titolo. Poi nel comparto difensivo ancora un rialzo di circa mezzo punto per Terna, Snam e Retegas più 0,29. Netta discesa ed eccoci qua di nuovo sui titoli del settore bancario. Monte dei Paschi subito meno 6, in realtà stamattina era partita un po' meglio, e poi tutte le popolari di nuovo giù. Fiat anche stamattina perde 3 punti. C'è stata questa notizia relativa ad una serie di indagini che sono state avviate dalle autorità americane sulle modalità di comunicazione dei dati di vendita, per cui Fiat doveva chiarire anche questo aspetto. E poi appunto i big del settore bancario, vi dicevo, scendono tutti, male anche Mediaset che perde 1,5 punti, e insomma oggi è una giornata un po' così. Naturalmente ci mettiamo in attesa anche della riunione della Banca Centrale Europea di giovedì, che potrebbe così annunciare ulteriori misure di sostegno all'economia e all'inflazione. Qualche decisione potrebbe essere presa nel meeting appunto di dopodomani nel consiglio direttivo, e vedremo appunto che cosa annuncerà Mario Draghi, soprattutto se lo farà. Allora, andiamo invece al primo approfondimento di oggi. Nicoletta, ieri cosa abbiamo detto? Che sul tema delle bollette a 360 gradi, qua bisogna far partire una bella battaglia, cuore denari, Da settembre. Esatto, da settembre qua si parte, perché non ci piace più questo comportamento. Allora, ovviamente noi in particolar modo parliamo spesso di maxi conguagli, consumi presunti, letture presunte, e quindi super bollette, bollette pazze, insomma una situazione che veramente ha a questo punto dell'incredibile. Quasi dell'incredibile, se non dello scandaloso. Le compagnie per questi comportamenti continuano ad essere multate, prendono delle sanzioni anche molto importanti, ma non c'è niente da fare, continuano imperterrite ancora a tempestare di queste appunto bollette stravaganti tutti i consumatori. Noi riceviamo tante segnalazioni, le giriamo alle associazioni dei consumatori, che ci danno una mano anche a gestire i reclami, cosa bisogna fare per gestire queste conflittualità, ma alla fine appunto i risultati sono molto scarsi. Ne abbiamo trovata poi un'altra di notizia che ha a dir poco dell'incredibile, un po' diversa rispetto a queste denunce che facciamo, però anche questa ci dà l'idea di un comportamento un po' curioso da parte della forse più grande compagnia appunto di distribuzione dell'energia del nostro paese. E se non è un record, poco ci manca, perché ricevere 35 bollette in 2 giorni non è proprio un fatto usuale. Pensate quel postino che ha dovuto fare o 35 viaggi avanti e dietro in questa abitazione, oppure comunque portare questo plico piuttosto consistente tutto in una volta, tutto che aveva lo stesso mittente, glielo dico, era Enel, e insomma quindi una questione davvero su cui è stato necessario sollevare l'attenzione. Le fatture in questione riguardano un'utenza che 8 anni fa è passata peraltro ad un altro soggetto a seguito di una voltura. Eppure Maria Alessandra Geremia, di 63 anni, medico di base che fino al 2008 aveva uno studio dentistico a Treviso, in 2 giorni ha ricevuto proprio 35 bollette di Enel Gas per un importo che si aggira intorno ai 7.000 euro. E così ha deciso di rivolgersi ad un'associazione dei consumatori, ADICO, Associazione Difesa dei Consumatori. Noi questa mattina abbiamo in collegamento telefonico l'avvocato Maria Grazia Cangemi, che salutiamo. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno a tutti. Anzi. Allora, ci racconti un po' questa storia, ne ho dato una sintesi estrema. La signora Maria Alessandra, ovviamente, che voi state assistendo in questo momento, ha scelto di contestare quelle fatture che non le spettavano. In base a che cosa sono arrivate? Dove sarebbe stato l'errore? Allora, partiamo dal presupposto che le fatture partono dall'anno 2008 all'anno 2015. Come avevi anticipato tu, nel 2008 la dottoressa aveva ceduto il suo studio ad un altro medico, quindi cedendo l'azienda ha fatto anche la voltura delle utenze. Quindi si presuppone che dal 2008, il momento della voltura, fino ad oggi, tutte le fatturazioni siano intestate al nuovo intestatario. Certo, chi è subentrato, ovvio. Esattamente. Già la signora aveva raccontato che successivamente alla voltura era arrivata qualche altra fattura, ma di poca entità. Aveva immediatamente contestato e l'aveva affermato il suo errore, e pertanto aveva un attimo chiuso la vicenda. Poi l'aspetto è diventato quasi surreale, perché in un giorno ha ricevuto 29 bollette, il giorno seguente ne ha ricevute altre 6, per volevano essere sicuri che fossero arrivati, quindi hanno rafforzato la dose, naturalmente. Adesso mi spiace anche prendere in giro un'azienda, però vabbè. Detto questo, avvocato Cangemi, cosa state facendo per supportarla? Che cosa ha fatto questa signora? Come si è comportata? Appunto, ha inoltrato un reclamo. Poi avrà detto questi sono pazzi. Cosa ha fatto? Allora, inizialmente aveva provato un attimo lei a risolvere la questione recandosi agli uffici dell'Enel, ma ormai abbiamo riscontrato che praticamente è inutile andare nei punti Enel piuttosto che di altri fornitori, perché poco si riesce a risolvere. Quindi ormai un po' persa le speranze, si è rivolta alla nostra associazione e quindi è partita immediatamente una lettera di diffida ai confronti dell'Enel, spiegando un attimo l'accaduto, rievocando il susseguirsi degli eventi, quindi la voltura del 2008, insomma, fino ad oggi, e quindi ci aspettiamo che l'Enel, insomma, ritorni sui suoi certo, passi. Quindi ancora risposte non ne sono arrivate? Momentaneamente no. Anche perché, insomma, hanno delle tempistiche anche loro da rispettare, quindi insomma, con il caso della con il caso della signora Maria Alessandra richiamo un po' la casistica di tutte le conflittualità aperte con i distributori di gas ed energia, no, avvocato Cangemi? Perché immagino che, come succede a tutte le altre associazioni dei consumatori, come succede anche a noi che ho a cuore denari che riceviamo un po' come uno sportello diritti del consumatore, tante segnalazioni da parte delle famiglie italiane, anche voi appunto riceviate lamentele su comportamenti, pratiche commerciali scorretti appunto da parte di queste aziende. All'ordine del giorno. Esatto, ormai. Ma è mai possibile che non si riescano a combattere queste pratiche? Come possiamo fare come consumatori? Perché qua veramente ormai anche l'autorità del gas e dell'energia ne è pienamente consapevole. Lei stessa mi segnalava che le multe che prendono sono anche molto dolorose, sono belle sonore, no, avvocato? Eppure non succede niente. Ma perché? Perché fondamentalmente manca una legislazione ad hoc. Dobbiamo ricordare che in Italia abbiamo il mercato tutelato e il mercato libero. Sostanzialmente per queste due entità, per una esiste una legislazione, per il mercato libero è quasi un po' un'anarchia, cioè quello che alla fine ritengono opportuno fare fanno. L'unica arma di difesa che abbiamo in mano è appunto inoltrare i reclami al sportello del consumatore, il quale viene messo al corrente di quello che sta appunto accadendo. Così come è accaduto per un fornitore di energia e gas, ricevendo così tante segnalazioni da tutte le associazioni di consumatori, più chi si muove autonomamente, ha deciso di aprire delle istruttorie per capire come mai arrivino tutte queste segnalazioni di andamenti che non sono proprio così illegali. In questo modo si arrivano alle sanzioni. Però, come detto, le sanzioni sono irrisorie nei loro esatto, confronti. Spesso lo mettono a budget, appunto, un importo possibile di sanzione che potrebbe essere chiamate a pagare e quindi sono pronte ad ogni eventualità. Non ci resta che continuare a fare il nostro dovere di consumatori, segnalare, denunciare, non rimanere passivi di fronte a queste vicende, naturalmente farci sostenere anche dalle associazioni dei consumatori, prima o poi qualcosa succederà, insomma, finiremo per pagare quello che dobbiamo e basta, no? Esatto. Il consiglio che do sempre per quanto riguarda il gas, fare sempre le autoletture, perché ancora in alcuni immobili i contatori del gas sono all'interno e non all'esterno, certo. Quindi le compagnie non sono in grado proprio di verificare la lettura, quindi in quel caso di fare sempre le comunicazioni delle letture, certo, per avere una fatturazione verosimile, un po' insomma reale. Continuate, sì, grazie avvocato Cangemi per essere stata con noi. Naturalmente noi siamo qua a disposizione per smistare tutta la posta che ci arriva, non ce ne mandate 35 al giorno possibilmente, però certo, insomma ci facciamo aiutare dall'associazione dei consumatori Adico, associazione difesa dei consumatori. Salutiamo anche la signora Maria Alessandra che ha ricevuto queste simpatiche 35 missive. È tempo del traffico, che dici? Direi di sì, andiamo. Cuore e denari. Ed eccoci tornati insieme per la rassegna stampa di Cuore. Deborah, noi andiamo in Inghilterra. Andiamo. Ecco, non per la Brexit, ma perché il principe Harry si è sottoposto, caro, in diretta social al test dell'HIV. Quasi avesse sentito l'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa, anzi proprio che tu. Ho fatto tu, con grande piacere, professor Andreoni, no? Esatto, allora eccocelo qua in linea. L'abbiamo con noi. L'abbiamo richiamato? Certo, ottimo. Professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e presidente della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Ha sentito anche Harry? Ah, si vede, si è sintonizzato con l'intervista vostra e ha detto lo faccio anch'io il test HIV e ha scelto di farlo in diretta social proprio per mandare un messaggio forte e chiaro, anche perché nel Regno Unito la situazione non è tanto brillante, professore. No, non è troppo birlante e direi che ha fatto benissimo, perché dare il messaggio anche da parte di personaggi che sono ovviamente alla ribalta è importante per far capire alle persone la rilevanza del problema, perché oggi si pensa che ormai il problema non esiste più perché esistono le cure, quindi riusciamo a tenere sotto controllo la malattia. Purtroppo bisogna ricordarsi che questa è una malattia che va curata per tutta la vita oggi, quindi la cura riesce a controllare ma non riesce a guarire, questo ovviamente è un grande problema. Infatti nell'intervista ha detto bisogna, i controlli dobbiamo farli tutti, e poi il fare il test proprio in diretta social ha permesso anche di mandare un altro messaggio, è molto rapido il test, è indolore, basta una goccetta di sangue. Professor Andreoni. Il test innanzitutto è gratuito, quindi chiunque può rivolgersi direttamente alle strutture sanitarie, ospedali, ASL e quant'altro per chiedere di fare il test, quindi è una cosa molto semplice, non costa nulla sotto l'aspetto economico. E poi è molto semplice, basta pochissimo sangue per fare il test e quindi ricevere la risposta se si è positivi oppure no. Saperlo diventa fondamentale per se stessi, e perché per come in tutte le malattie prima ci si cura e meglio è, e poi per gli altri perché si evita di trasmettere la malattia, e questo in Inghilterra così come in Italia è ancora un grande problema. Professore, quando farlo? Ci spiega esattamente il famoso periodo finestra? Facciamo un caso, io ho un rapporto a rischio. Voglio controllare la mia salute. Allora, è il caso che lo faccia subito dopo? Devo aspettare? Che situazione mi fotografa il test? Allora, il test fotografa tutto quello che è accaduto 3 mesi fa. Oggi in realtà i test si possono dire che fotografano quello che è successo 2 mesi fa. Quindi quando io faccio il test oggi posso avere garanzia che tutto ciò che è accaduto 3 mesi fa non ha comportato nulla, se il test ovviamente è negativo. Per sapere quello che è successo ieri sera devo aspettare 3 mesi, ovviamente tra 3 mesi lo saprò. Chi deve fare il test? Deve fare il test tutti coloro che hanno avuto comportamenti a rischio, diciamo, quindi avere il timore che un rapporto sessuale o che altre situazioni abbiano potuto creare un rischio di contagio. È più facile farlo che starlo a discutere, direi. Invece stanno discutendo molto gli esperti in questi giorni a Durban in Sudafrica, dove si sta svolgendo la 21ª conferenza internazionale sull'AIDS, proprio con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sulla prevenzione, soprattutto garantire l'accesso su larga scala al trattamento dell'HIV. Professore, comunque continuare a parlarne serve a tenere alta l'attenzione, perché il silenzio e la paura alimentano questa situazione. Assolutamente sì, guardi, io ieri nel mio ospedale abbiamo dato 2 positività, cioè si continua ad andare incontro a questa infezione. Ed è veramente una cosa oggi inaccettabile, perché abbiamo tutti i sistemi per prevenire l'infezione. Trattare e riuscire a trattare il maggior numero di persone vuol dire impedire che l'infezione continui a circolare, un po' come quel messaggio trionfalistico dato dagli australiani, siamo riusciti a debellare, non completamente, ma certo hanno fatto un enorme passo avanti. E l'Italia questo lo può fare altrettanto, e quindi veramente bisogna invitare tutti a eseguire il test, e perché esiste il trattamento e possiamo controllare bene la malattia e non permettere più che si diffonda ulteriormente. Grazie professore, a presto. A presto, grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. Continuiamo la nostra rassegna stampa commentando un'altra notizia che arriva questa volta dal mondo del calcio. Secondo la stampa, questo Pep Guardiola, tu lo conosci? Io ho letto. Non interrogarmi così, no, bruciapelle. Io sono Laura Vanossi che mi. E lei è esperta. Mette, ecco, lei è in conflitto di interessi familiari. È diventato subito un personaggio molto interessante perché ah, sì, ha imposto ai giocatori ieri, sì, del Manchester City una dieta molto rigida. E cosa ha detto? Mi raccomando, ragazzi, da adesso niente pizza. E io mi sono detto, ma perché, poverini? Vabbè, senza magari pizza? Prima dell'allenamento rimane un po' qua, dai. Allora, sa, si potrebbe dire, bene, una Champion va bene una pizza, ma battute a parte. Allora, la notizia ci dà lo spunto per parlare con il nostro prossimo ospite del menù di uno sportivo che si allena più per passione che per dovere. Buongiorno al professor Michelangelo Giampietro, medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professore, sempre per usare una terminologia sportiva, possiamo dire Guardiola 1, pizza 0. Ma perché gli ha vietato la pizza? Ma io immagino gliel'abbia vietata perché è una pizza inglese. Che cattivella. Non vedo motivo. Voi e la Brexit, che non sapete fare neanche la pizza. Esatto. Adesso non ho mai osato mangiare la pizza in Inghilterra. Tantomeno a Manchester, ma penso che il problema di fondo sia soprattutto la qualità della pizza, forse non è ben lievitata, quindi è poco digeribile, è condita in maniera eccessivamente grassa. Certo, subito dopo un'attività sportiva, un pezzo di pizza. Beh, però ad esempio, professore, lei mi insegna, dopo la partita di calcetto, che i mariti e i fidanzati, comunque i maschi, vabbè, solitamente ma non sono fanno, dopo cosa si fa? La pizza, pizza e birra. Professore. Ben venga. Ecco, vede. Ben quindi venga, assolutamente, una buona pizza, l'importante è che sia ben fatta, ben lievitata, ben cotta, poi il condimento, se uno per quell'occasione si orienta su un condimento un po' meno grasso è meglio, altrimenti va bene qualunque cosa, anche perché subito dopo dobbiamo introdurre carboidrati e proteine. La pizza contiene l'uno e l'altro anche in base al condimento che ci mettiamo sopra. Una pizza con margherita classica, con la mozzarella o col prosciutto vanno benissimo, non ci sono problemi di nessun genere. Scateniamo i nostri ascoltatori chiedendo la loro pizza ideale, naturalmente, ma al professor Giampietro io vorrei chiedere di dare due dritte sull'alimentazione dei nostri ascoltatori che praticano sport a livello amatoriale. Al posto della pizza o in alternativa alla pizza, quale potrebbe essere il menù sportivo il menù dell'homo sportivus? Dipende dal momento della giornata in cui si fa sport. Se lo si fa classicamente la sera, quindi parliamo di una cena, io direi che un piatto di pasta condita con un sugo leggero ed eventualmente diciamo integrata la cena con una porzione di una pietanza carnea, che sia una carne bianca più digeribile, il pollo, il tacchino o un pesce, entrambi conditi in maniera semplice e cotti in maniera semplice, quindi o al vapore o alla bollitura, accompagnata da verdura, frutta e un piccolo dessert, un dolce da forno, è l'ideale, sempre che si sia ovviamente anche curata l'idratazione, evitando per quanto possibile nell'immediato post allenamento gara gli alcolici, perché ritardano la ricostruzione delle nostre riserve di zucchero nei muscoli e nel fegato, cioè il glicogeno, e questo non è una componente utile per chi fa sport. Quindi per quell'occasione meglio l'acqua, meglio anche una bevanda zuccherata piuttosto che una bevanda alcolica. Professore, per chi invece si allena alla mattina, quale potrebbe essere un esempio di colazione per dare tutta l'energia ai muscoli necessaria e lo sprint per affrontare l'allenamento? Una colazione dolce, possiamo prendere dello yogurt con dei cornflakes, della frutta fresca spezzettata e del miele, oppure delle fette biscottate con marmellata e miele e un caffè. Eviterei il latte perché è un pochino più difficile da digerire, mentre il latte lo utilizzerei subito dopo l'attività fisica come splendido integratore, sia per la sua componente idrica sia per la quota proteica, eventualmente con l'aggiunta anche qui dopo l'allenamento al latte di una porzione di cereali. Altrimenti va bene anche del pane bruscato o, per chi preferisce, una colazione salata, una piccola porzione di pane, un panino con della bresaola o del prosciutto sgrassato, con privato del grasso visibile, sicuramente la scelta più adatta, anche accompagnata da una spremuta d'arancia o da un succo di frutta. Per garantire la corretta idratazione. Professore, grazie per essere stato con noi. Ci sentiremo presto. Buona giornata. Buona giornata a voi. Adesso noi andiamo a sentire le notizie del nostro GR. Ritorniamo GR subito dopo insieme. A tra poco. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek. Tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Cuore e denari. Allora, in questi giorni così difficili, in cui il futuro appare sempre più incerto e soprattutto buio, vogliamo dare spazio a una bella notizia, una notizia che accende la speranza e dimostra che ci sono gesti che lasciano il segno perché restituiscono la vita. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Remuzzi, nefrologo dell'ospedale Papa Giovanni XXIII e dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, coordinatore delle ricerche anche del Mario Negri di Bergamo. Professore, bentornato e grazie. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Allora, professore, vogliamo raccontare la storia di una signora che ha deciso di donare un rene. Chi dona un rene di solito lo fa a favore di un familiare o di qualcuno con cui ha rapporti affettivi. Invece la signora di cui parliamo oggi l'ha fatto per regalarlo a qualcuno che nemmeno conosce, proprio come atto di generosità, in modo samaritano, ovvero senza sapere a chi sarebbe stato destinato. È il secondo caso, il primo è già successo poco più di un anno fa, ad aprile, ma in entrambe le situazioni il gesto ha messo in moto una catena di trapianti incrociati. Naturalmente questo, il risultato, il successo è stato reso possibile, oltre che dal dono della signora, anche da un lavoro d'équipe, professore, che è stato coordinato alla perfezione. Vogliamo ricordare i centri che hanno, insieme sotto il coordinamento del Centro Nazionale Trapianti, che hanno partecipato? Sì, certo. Questo dà l'idea di come il nostro Servizio Sanitario Nazionale possa funzionare in modo integrato. Questo ha coinvolto l'ospedale di Niguarda, il Policlinico di Milano, l'ospedale, l'azienda ospedaliera di Pisa, quella di Siena, l'ospedale di Bergamo alla fine e poi quasi 200, forse di più, persone tra medici, infermieri, rianimatori e gli operatori di polizia hanno portato questi organi in tutte le parti d'Italia in modo rapidissimo, con un sistema di trasporto molto efficiente e come ha detto lei, è una macchina organizzativa che ha funzionato molto bene, questo ci piace riconoscerlo e sottolinearlo. Grazie a questa donazione da vivente è stato possibile incrociare in successione tutti i donatori riceventi, creando una catena di donazione di trapianti. Ci spiega anche potendo realizzare trapianti anche nei casi in cui i donatori riceventi erano incompatibili tra loro a livello immunologico per gruppo sanguigno. Sì, questo sistema, si usa un termine inglese, è un po' antipatico che tutte le cose bisogna sempre usare dei termini inglesi, ma comunque insomma si chiama crossover. Sì. E quindi vuol dire che ci si incrocia sostanzialmente, si parla di donatori e riceventi e di donatori viventi. Allora ci sono coppie di persone, il donatore e il ricevente, che però possono essere incompatibili. Sì. E ci possono essere varie coppie, tante persone possono voler donare un rene a un loro familiare. La cosa interessante è che di solito sono le donne che sono i donatori, è molto più raro che lo siano gli uomini, le donne sono la mamma per il figlio, sono la moglie per il marito, però non sempre la persona a cui tu vorresti donare il rene è compatibile. E allora come si fa? Si va a cercare un'altra che pure lo vorrebbe donare al suo familiare, ma è incompatibile con quel familiare, ma è compatibile invece con te. Facciamo un esempio: una signora vuole dare il suo rene al figlio, ma quell'organo per il ragazzo non va bene. Allora l'Organizzazione Nazionale dei Trapianti individua tra le coppie che sono pronte a donare e a ricevere una persona che è compatibile con i tessuti del ragazzo. L'organo della mamma invece andrà a un altro paziente che a sua volta ha un suo donatore vivente, ma non compatibile. E così si va avanti. Con quel sistema lì ci sono delle persone negli Stati Uniti, per esempio il più interessante, perché ha fatto queste cose per primo e ne ha fatte moltissime, è Robert Montgomery, che a Bethesda ha fatto anche 10 e una volta mi pare persino 13 persone innescando questa catena. C'è una sorta di effetto domino, una catena di Sant'Antonio così, virtuosa. Sì, esatto, ecco. E qui è quello che è successo, è che questa signora, che ha voluto essere assolutamente anonima, e questo fa parte anche di un gesto di generosità molto speciale, come dicevate voi all'inizio, insomma in questo momento abbiamo bisogno di questi gesti, viene prelevato il suo rene all'ospedale di Niguarda, questa donazione, e poi va a finire a Pisa, dove c'è una persona che può ricevere il rene della signora, però il suo donatore non è compatibile con lui. Allora il suo donatore va di nuovo a finire un'altra persona di Pisa, poi una persona di Siena, tutti incompatibili ma compatibili con il donatore, non della coppia ma un altro, e alla fine arriva da noi, arriva a Bergamo questo rene che viene trapiantato, una persona in lista d'attesa. È la cosa che fa ancora più impressione di questa storia è che il ricevente è una persona in lista d'attesa, è una persona molto povera che ha dovuto lasciare l'India, che è arrivata da noi, ha cercato un lavoro, ha due bambini in India, anzi tre, che non vede mai, la moglie adesso vive con la sorella, ha avuto bisogno di dialisi e in Italia ha trovato un'accoglienza, un lavoro, la dialisi e adesso il trapianto, e lui vorrebbe riprendere il suo lavoro e tornare in India a vedere la sua famiglia. E noi glielo auguriamo. In questo momento di intolleranza per chi è diverso da noi, mi pare una grande risposta del nostro servizio sanitario e anche dell'organizzazione civile del nostro mondo, di come siamo fatti. Abbiamo bisogno anche di raccontare, soprattutto in questi momenti, delle storie così luminose. Professor Remuzzi, certi donatori samaritani saranno pochi, indubbiamente non risolveranno il problema, ma probabilmente faranno riflettere tanti che potrebbero farlo per i loro familiari, no? Nei paesi avanzati sì, certo. I donatori viventi sono sempre di più, soprattutto certo. Negli Stati Uniti, che fanno sì, scuola. Sì, negli Stati Uniti sono il 50% di tutti i donatori, in Olanda sono il 60%, noi non arriviamo a malapena al 10%. Sì. E invece abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di donare il proprio rene a familiari quando questo è possibile. Ecco, c'è anche un altro vantaggio, professore, oltre che a ridurre naturalmente il tempo per le liste d'attesa, no? Anche dal punto di vista clinico, in termini di durata, che differenza c'è tra un rene da cadavere e uno da donatore vivente? Il rene di solito non è per sempre, nessun organo è per sempre, anche se abbiamo fatto tanti passi avanti. Un organo che viene da un cadavere, un rene per esempio, dura in media 13 anni, e uno che viene da un donatore vivente dura in media 20 anni. Non vuol dire che dopo 20 anni il rene non funziona più, certo. Vuol dire che per qualcuno dura soltanto 10, per qualcuno 30, la media fa 20 anni. Quindi c'è un vantaggio, perché l'organo che si preleva a un donatore vivente è un organo in perfette condizioni, se no non lo si preleva. È quello che viene dal cadavere è quello che troviamo, non sempre è un rene perfetto, ma soprattutto è un rene che non può essere trapiantato subito, perché magari il prelievo si fa lontano, deve essere trasportato, mentre l'operazione tra donatore e ricevente, salvo questi casi di crossover di samaritano, è contemporanea, quindi il rene non subisce nessun trauma da viaggio, da conservazione, da freddo, da caldo, da quello che succede quando si prelevano questi organi. Professore, c'è anche un'altra modalità che aiuta ad aumentare il numero dei trapianti, è quella di utilizzare reni di persone anziane ed eventualmente trapiantare due reni invece che uno nello stesso ricevente. Sì, questa è una cosa che è partita proprio, dal Mario Negri, insieme ai chirurghi vostri. Proprio dalla collaborazione tra l'ospedale di Bergamo e il Mario Negri. Quello che succedeva è che ci rendevamo conto che i donatori sono sempre più anziani. Per fortuna... muoiono sempre meno bambini di incidente stradale, il casco ha portato a un grande passo avanti nella sicurezza delle strade. I pazienti che sono adatti ad avere pazienti che poi sono cadaveri quando diventano donatori, hanno un'età sempre più avanzata. E allora quello che abbiamo pensato è: perché non proviamo, anziché trapiantare un solo rene come si fa di solito, perché il trapianto è nato dal primo trapianto da vivente, quindi se ne prelevava uno solo, a trapiantarne due dallo stesso donatore, dopo aver guardato la qualità di questi reni nel microscopio. Quindi noi facciamo un piccolo prelievo, guardiamo il microscopio, uno può avere 80 anni ma un rene perfetto, due reni perfetti, allora ne trapiantiamo due. Uno per un ricevente, uno per un altro, ma invece può avere qualche danno, e allora ne trapiantiamo due nello stesso ricevente, un'attività che abbiamo cominciato proprio qua, e si vede che funziona assolutamente come un rene normale di una persona giovane. Può essere che questi reni sono molto danneggiati e allora li eliminiamo, ma anche quello è importante, perché evitiamo, certo, di trapiantare un rene che ha dei danni. Con questa attività la cosa straordinaria è che abbiamo appena finito di scrivere il lavoro, che sarà spedito per pubblicazione, speriamo un giornale importante, anche preleviamo reni da persone di più di 80 anni. Questa è una collaborazione tra l'ospedale di Bergamo, quello di Verona e quello di Padova soprattutto, dove questa attività che abbiamo cominciato noi di doppio trapianto ha preso piede in un modo straordinario. Loro fanno moltissimi doppi trapianti, questo succede anche a Torino, succede anche nell'Italia del Sud, tante volte si dice che nel Sud le cose non funzionano per il doppio trapianto, non è vero. E quindi insomma siamo molto contenti, abbiamo aumentato in quindi questo modo. Quindi anche questa un'altra buona notizia. Professor Remuzzi, prima di salutarci vorrei che lei raccontasse agli ascoltatori di Cuore Denari un successo ancora della ricerca che potrebbe rivoluzionare le terapie post-trapianto con l'eliminazione dei farmaci anti-rigetto, che come sappiamo vanno assunte subito dopo il trapianto e possono avere anche degli effetti molto pesanti anche sullo stesso organo impiantato. Professore, siamo quasi ad una svolta? Queste cose vanno sempre annunciate con molta prudenza, con molto garbo. Abbiamo cominciato tanti anni fa, siamo vicini a vedere qualcosa di importante. Siamo andati molto piano, abbiamo studiato tre gruppi di due pazienti, ciascuno fanno sei pazienti che hanno ricevuto insieme al trapianto cellule staminali, cellule mesenchimali come si dice, cellule staminali dal loro stesso midollo, quindi è il ricevente che riceve l'organo da un donatore e le sue stesse cellule, che vengono però processate in laboratorio, espanse, cioè da centinaia di cellule diventano decine di migliaia e poi milioni di cellule, e queste cellule vengono reinfuse nel ricevente e diventano capaci di tenere a freno il sistema immune. È una cosa che ha delle basi teoriche molto solide, che nei topi funziona molto bene. Nell'uomo abbiamo cominciato ormai 6 anni fa e abbiamo i risultati a lungo termine di un paziente che è quasi ormai senza terapia antirigetto. Di solito si fanno 3 o 4 farmaci, questo paziente ha sospeso quasi tutto, è rimasto con un solo farmaco, un dosaggio bassissimo, presto sospenderemo anche quello. E questo sì, certo, potrebbe un giorno, noi vogliamo essere prudenti, non vogliamo annunciare le cose prima che succedano, però abbiamo veramente siete su quella strada di essere vicini a una cosa importante. Grazie professor Remuzzi per essere stato con noi, buona giornata e complimenti. Grazie. Quindi con tutte le cautele, no? In punta di piedi possiamo dire anche che nel post trapianto stiamo migliorando, ma il nodo vero resta comunque l'incentivazione delle donazioni di organo per far fronte alla domanda crescente di trapianti. Ne parliamo oggi con il dottor Alessandro Nanni Coste del Centro Nazionale Trapianti. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora dottore, diamo il meglio di noi, è il claim della campagna nazionale su donazione trapianti di organi, tessuti e cellule di quest'anno, e mi sembra che sia perfetta per sottolineare un dato positivo da cui vorrei partire, perché sono in aumento gli italiani che manifestano la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti. L'Italia è al terzo posto in Europa dopo Spagna e Francia proprio come numero di donatori. Insomma, questo è segno che molte barriere sono cadute. Certo, c'è ancora molto da fare, ma dottore, siamo sulla buona strada. Quanto ci manca? Allora, contiamo su due cose. Da una parte le campagne, questa campagna molto importante Diamo il meglio di noi, che è utile sia per le donazioni dopo la morte, ma anche utile per le donazioni da vivente, anche per le donazioni staminali non poietiche. In Italia abbiamo, cominciamo da qua, abbiamo 480.000 donatori disponibili a donare le proprie cellule a un paziente, se ce ne sarà bisogno. Poi abbiamo ottimi dati nella donazione di tessuti, abbiamo ottimi dati quest'anno nella donazione degli organi. Quest'anno abbiamo nei primi sei mesi il 10% di donatori in più rispetto all'anno scorso di organi. Vuol dire che trapianteremo alla fine dell'anno 300-350 pazienti in più. Sono numeri importanti. Assolutamente. Che cosa succede con la campagna? La campagna, Diamo il meglio di noi, vuole portare la gente a esprimere la volontà sulla donazione. Dove? Prima di tutto in comune. Quando cambiamo la carta d'identità, quando dobbiamo rinnovarla o per qualsiasi ragione, in queste condizioni ci chiederanno se vogliamo esprimere la volontà alla donazione e noi potremo dire sì, io voglio esprimerla e voglio esprimerla positivamente. Certo. Questa volontà, allora lo scorso anno avevamo, nel 2014 avevamo 50 comuni, erano 400 nel 2015, sono 1300 oggi, ormai in una quota significativa dei comuni, in alcune grandi città come Roma, Milano, Bologna, Cagliari, Perugia, Ancona, a tutti i cittadini viene chiesto. Questo vorrà dire che fra qualche anno tutti sapranno di questa possibilità e questo è un dato veramente importante per le donazioni. Quindi stiamo crescendo. Stiamo crescendo e volevo segnalare che sul sito Sono un donatore è possibile verificare se il proprio comune di residenza si può esprimere la volontà di donare. Esatto. C'è una cartina, ci sono tutti i puntini, tu clicchi, vai a vedere se nel tuo comune parteciperà. Diciamo che nel giro di 2-3 anni tutti i comuni lo faranno. Poi ci sono però gli altri modi, abbiamo anche nella ASL si può donare. Si può donare nella ASL dichiarando la propria volontà, certo. Ma è valida anche legalmente qualsiasi dichiarazione scritta e firmata dicendo che voglio donare i miei organi dopo la morte. Basta una dichiarazione scritta, datata e firmata, ma può anche essere una iscrizione a un'associazione come l'AIDO. I donatori dell'AIDO, che sono circa 1.300.000 oggi, vengono automaticamente iscritti nel computer, sì, nel sistema informativo, che viene consultato tutte le volte che in Italia c'è un donatore. È già un servizio attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. Ogni volta che c'è una donazione di organi, noi controlliamo su questo sistema informativo se la persona aveva espresso la volontà. Se l'ha espressa attraverso l'AIDO o l'ha espressa attraverso il sistema comune informativo, con, certo, il meccanismo della carta d'identità in comune, e compare il nome e noi sappiamo già che quella persona ha detto che vuole donare. Cosa cambia? Se una persona dice che vuole donare gli organi, lo farà. Alla famiglia non viene chiesto più niente di esprimere un parere sulla donazione. Oggi, se non c'è nessuna espressione, la famiglia può opporsi alla donazione. Se c'è un'espressione del cittadino, la famiglia non può opporsi. Se invece il cittadino ha detto di no, la famiglia non può acconsentire alla donazione. Grazie. Quindi così è cittadino, la persona si esprime in prima persona e si è espresso la sua volontà. Dottore, facciamo il caso che io esprimo mi iscrivo al comune, che mi do la mia disponibilità a donare, ma poi nel corso della mia vita cambio idea. Si può fare? Certo che si può fare. Sufficiente o tornare in comune, ci sono delle procedure precise. È sufficiente o tornare in comune o dichiarare la propria volontà secondo una certa modalità al sistema informativo, e ovviamente questo vale. Comunque conta l'ultima dichiarazione effettuata nel tempo. Quindi se io cambio idea e tengo una dichiarazione con me contraria, in questo caso, io mi auguro di no, ma certo, potrebbe essere, c'è un diritto alla scelta, comunque conta l'ultima dichiarazione fatta. Allora, speriamo che poi non si cambi idea, ma soprattutto speriamo di mandare questo messaggio, di esprimerci. Noi vogliamo dire che ci sono dei pazienti che si curano solo se qualcuno dona gratuitamente, liberamente, come si fa in Italia, i propri organi. Ecco, e una anche in linea, che anche il trapianto è gratuito, completamente. Completamente, dato che siamo qua a Cuore Denari. E in linea abbiamo una di queste persone che grazie proprio alla donazione di un organo hanno avuto la possibilità di una seconda vita. Laura Mazzeri, buongiorno. Buongiorno a voi tutti e anche al professor Nanni Costa. Autrice di Tra due vite, Giunti Editore, un libro che non racconta la malattia ma la storia di un percorso, perché c'è un prima da lasciare e un dopo da reinventare. Laura. Certamente. Il periodo del prima è il periodo dell'attesa. Tutti i trapiantati vivono questi mesi con grande trepidazione. È un periodo difficile sotto l'aspetto fisico, perché la malattia tende ad aggravarsi e quindi si sta sempre peggio. Di isolamento sociale, perché man mano che la malattia si aggrava si sta tra casa e ospedale e quindi la vita un po' si ritira. Ma è anche una grande opportunità di contatto profondo con se stessi, perché si ragiona sul senso della vita e della morte. E abbiamo di fronte una duplice possibilità: o non arrivare al trapianto perché non arriva il dono dell'organo, oppure arrivarci. Molti fortunati ci arrivano e quindi ci si prepara a questo incrocio di destini dove una vita si spegne ma un'altra si riaccende, e a riabitare una nuova vita. È un percorso... E avere due date di nascita, no? Come scrivi tu, no? La prima è quella registrata, sì, sulla carta d'identità, sì. La seconda il giorno in cui si riceve il trapianto, che nel caso di Laura è stato un trapianto di fegato. Il risveglio dopo il trapianto, lo dicono tutti i trapiantati, ha un aspetto quasi del miracolo, è una grande meraviglia, perché il corpo ricomincia a funzionare e con ciò ricominciano i progetti di vita, ed è un'esperienza straordinaria. Posso dare un numero? Certo, grazie dottore, infatti venivo da poi lei. Vi saluto, vi do un numero. Noi riusciamo a trapiantare circa fra il 70 e il 75% dei pazienti in lista di attesa. Abbiamo i numeri più alti sul fegato, superiamo l'85%, sono un po' più bassi sul polmone, attorno al 65%. Quindi un paziente che entra in lista di attesa ha moltissime probabilità di ricevere il trapianto. Vogliamo raccontare anche questi, che sono sicuramente dei successi della ricerca delle medicine e anche degli esempi di perfetta organizzazione. Grazie dottor Nanni Costa, grazie a Laura Mazzeri. Dottor Nanni Costa, mi scusi, solamente un flash. Ero donatore AIDO da quando sono stato maggiorenne, mi sono tolta da quando non c'è più anonimato. Come può rispondere a questo ascoltatore? Il donatore è una donazione libera e gratuita e nessuno divulgherà i suoi dati, quindi non è questo il problema della donazione. L'anonimato non è possibile averlo nel momento in cui questo signore dovrà donare gli organi. Come facciamo a sapere qual è la sua volontà se non siamo in grado di rintracciare il suo nome e la sua dichiarazione? Quindi per la tracciabilità noi abbiamo bisogno. Vi assicuro però che questi dati vengono trattati nel rispetto delle norme, nel rispetto delle norme della privacy, e vengono trattati solo per questo scopo. Quindi nessuno divulgerà il suo nome come donatore. Grazie, buona giornata al dottor Nanni Costa, Laura Mazzeri, e a presto e continuate così. Buon lavoro, grazie. Andiamo a sentire i mercati? Ah sì, andiamo a sentire i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati, adesso apriamo la nostra pagina dedicata ai soldi, ai nostri investimenti. Allora, ci sono stati dei momenti del passato in cui il trend del mattone, l'investimento uno dei preferiti da parte delle famiglie italiane, lo analizzavamo molto spesso, in particolare quando le compravendite marciavano davvero spedite. E poi ci siamo ritornati molto frequentemente nel momento in cui invece hanno toccato un punto molto basso a causa della crisi finanziaria e bancaria che si è riflessa in maniera pesante nel mercato dei mutui. Anche quel momento ce lo ricordiamo molto bene, eravamo dopo il 2008, 2009, 2010. Ora che è successo? Il credito ha ripreso ad essere erogato, anche se naturalmente con una certa selezione, perché non si regala proprio un bel nulla, e qualche segnale di ripresa del mattone stiamo cominciando a riscontrarla. Dunque, ripresa sì, ma l'investimento immobiliare va comunque sempre approcciato con grande attenzione, anche per altre ragioni, perché come sapete negli ultimi anni la tassazione, la fiscalità del settore è stata rivisitata più volte, mandando in confusione i cittadini che spesso sono stati frenati anche dall'incertezza legislativa. Allora, come dobbiamo affrontare questo momento? Come valutiamo un investimento in un immobile? Stamattina faremo un riassunto dei principali osservatori che sono stati pubblicati di recente. Li commenteremo con un ospite che di questo settore sa molto. Buongiorno e grazie di essere tornato con noi dopo una lunga assenza. Bruno Vettore, amministratore delegato di BV Invest. Intanto buongiorno e ben ritrovato, Vettore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Era un amico della vecchia versione di Cuore Denari, quando era ancora Salva Danaio. Però ci fa amiche anche assolutamente, adesso, no? Un uomo che deve anche Cuore Denari. Da una ne prende esatto, due. Esatto, infatti. Conosce molto bene soprattutto il mondo della mediazione nel campo immobiliare, quindi tutta quella che è l'operatività degli agenti immobiliari. Ma naturalmente per essere un bravo agente immobiliare bisogna conoscere molto bene anche il mercato di riferimento. Allora io intanto volevo anche stamattina, se vogliono, coinvolgere i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Vorrei che ci raccontaste se avete in mente l'acquisto o la vendita di un immobile, perché forse questo secondo passaggio è quello un po' più delicato in questo momento. C'è chi ha messo in vendita la propria casa, ha in testa di fare un prezzo e non ha neanche lontanamente capito che invece in questo momento bisogna fare delle trattative molto dure e complicate con un potenziale acquirente. Comunque, vi sembra il momento giusto? Perché sì, perché no? Cosa vi frena? Oppure state portando a termine una compravendita, ma appunto non trovate l'interlocutore che cercate? Qual è il vostro punto di vista su questo mercato? Allora, dottor Vettore, prima di cominciare la mia chiacchierata con lei, le faccio intanto sentire una piccola parte di un'intervista che ci ha rilasciato la settimana scorsa Luca Dondi, che è il curatore di uno dei più importanti rapporti del settore immobiliare, quello che realizza Nomisma. Ne conduce due Nomisma ogni anno su 13 città importanti italiane, e nell'ultimo osservatorio Nomisma dice: dopo 8 anni di recessione ci sono segnali di ripresa nell'immobiliare, sono segnali deboli, riguardano sia i residenziali ma anche le imprese, e comunque le prospettive restano incerte, tutta colpa della Brexit. Sentiamo Luca Dondi. Oggi la tendenza prevalente è all'attesa per capire quali sono le evoluzioni dal punto di vista macro, e in questo quadro l'elemento Brexit è un elemento di incertezza e instabilità in un quadro già fragile, che certo non aiuta le prospettive di un settore che si stava faticosamente rialzando. In che cosa nello specifico se ne temono gli effetti? Sulla domanda, sulla prospettiva di rivalutazione che il settore in qualche modo accarezzava, avendo già registrato una flessione pesante dal punto di vista dei valori, oggi invece prevale l'attendismo, e questo si riflette su una prospettiva di stagnazione che tiene lontani gli investitori e in qualche modo allunga il tempo di latenza di una crisi che è stata già eccessivamente lunga. Un ulteriore elemento in un quadro già costellato di altri elementi di instabilità di natura endogena, di natura politica interna, sono tutti fattori che accrescono l'incertezza e in qualche modo rallentano le decisioni di investimento, soprattutto quando si tratta di importi elevati, e dall'altra parte rallentano il processo di erogazione delle banche, che sono ovviamente massicciamente esposte sui mercati finanziari internazionali. Vettore, è d'accordo con il suo collega, con Luca Dondi? Insomma, Brexit si farà sentire nel medio-lungo termine anche sul mattone italiano, compromettendo in qualche maniera di nuovo il circuito finanziario che stava provando di nuovo a rialimentare l'investimento nel mattone. Lei come la vede? Ma io penso questo, che dal destino dei tassi degli Stati Uniti, insomma, al dopo Brexit, le partite aperte siano davvero tante e complicate. D'altro canto però dobbiamo anche tener conto dei dati, dei numeri che sono inoppugnabili, e non possiamo dimenticare per esempio i dati del primo trimestre 2016, che rispetto al pari periodo dello scorso anno prevedono un più 20,6% nell'ambito delle transazioni residenziali, che non sono numeri da poco, insomma, ecco, il commerciale un po' più basso, capannoni uffici un po' più bassi, quindi da una parte l'incertezza evidentemente è condizionata da una situazione nazionale ed internazionale oggettivamente complicata. Dall'altra parte però, insomma, penso che un pizzico di positività ci debba essere, confortata anche dai numeri che sono indubbiamente piuttosto positivi, di cui noi dobbiamo prendere atto. Certo. Significa che c'è anche una rinnovata, cauta fiducia verso l'acquisto immobiliare. Non mi pare un fatto assolutamente trascurabile, dato quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. E però, forse anche proprio per l'aspetto che ho indicato prima, dottor Vettore, la confusione, se vogliamo, comunque l'incertezza, il continuo cambiare anche le misure sulla fiscalità, sul mattone, sicuramente è un tema che ha generato molta confusione da parte di molti potenziali investitori italiani. Ci mettiamo le famiglie, ma ci mettiamo anche quelli che hanno magari portafogli un po' più interessanti da destinare a, per esempio, riqualificazioni di aree del nostro paese. Secondo lei, magari rivolgendoci un po' alle famiglie che sono all'ascolto in questo momento e che hanno dei dubbi di fronte all'idea di affrontare appunto una compravendita immobiliare, come li possiamo sciogliere? Io quello che dico sempre è che se tu devi comprare la casa della tua vita, devi fare un investimento perché ci devi andare ad abitare, perché magari è quella che tu hai sognato da tempo, magari forse non devi farti tanto condizionare anche da questo, eppure per molti italiani non è così. Quanto contano questi aspetti? Guardi, io penso che gli aspetti complessivi burocratici e fiscali contino per operazioni importanti e per investimenti importanti. Credo che l'acquisto della prima casa, che poi insomma è il bene principale a cui noi italiani siamo molto legati, ricordo che l'80% delle famiglie sono proprietarie della loro prima casa, credo che sia più una spirale psicologica una negativa, perché non credo che l'acquisto di un immobile debba essere condizionato da qualche centinaia di migliaia di euro di imposta, tasi, tari, eccetera, eccetera, insomma forse abbiamo anche dimenticato i nomi. E quindi, come dire, mi pare che sia più un impatto di tipo psicologico, più che la reale consistenza in termini economici. Evidentemente sto parlando della prima casa. Il tema invece della seconda casa, della casa vacanze, è un po' diverso, perché oggettivamente l'imposizione fiscale è piuttosto alta. Ma sulla prima casa credo che entrino in campo altre cose, e l'incertezza evidentemente la fa da padrone. Ma ove si acquisisca un minimo di certezza e di consolidata fiducia sul tema della ripresa, credo che gli aspetti fiscali, peraltro importanti, ma relativamente all'acquisto di un immobile, debbano essere uno degli elementi, ma non il principale. Certo. E allora quali suggerimenti possiamo dare alle famiglie che in questo momento invece sono frenate, pur avendo magari anche una certa capacità economica, nel fare l'investimento immobiliare? Allora, i tassi sono molto bassi, quindi volendo, se si hanno tutti i requisiti a posto, si può andare in banca e ottenere anche un credito a bassissimo costo in questo momento. Quali sono ancora quelli che lei percepisce come elementi frenanti da parte delle famiglie? Guardi, io penso che questo sia, può apparire così una battuta, ma invece lo è veramente, questo è veramente uno dei momenti migliori per acquistare, ma per una serie di motivi oggettivi. Come diceva lei, i tassi, oggi abbiamo tassi variabili tra l'1 e l'1,5%, bassissimi, mai così bassi da moltissimi anni. Il fisso è tra, diciamo, l'1,82 e 2,30%, molto molto basso. I prezzi dal 2007-2008 in poi hanno avuto un ribasso costante, e anche oggi sono lievemente a ribasso e hanno toccato, come dire, punte di sconto effettivamente molto molto alte. Si è andata un po' allentando quella rigidità appunto dell'offerta, dottor Vettore? Assolutamente, perché le persone hanno dovuto rendersi conto che se vogliono mettere sul mercato il loro immobile debbono metterlo ad un valore di mercato. Quindi per chi si trova dalla parte, diciamo, dell'acquisto, credo che sia in un momento migliore. Ci mette anche un'ampissima scelta, perché evidentemente c'è una grande offerta sul mercato, poi dipende dalla città, dal luogo, dalla provincia o dalla zona, però c'è mediamente una grandissima offerta. Quindi al di là dell'incertezza reale e psicologica, però da un punto di vista di dati oggettivi di mercato, credo che siamo in una situazione in cui c'è un combinato di dati favorevoli, e quindi per chi compra credo che si sia in una posizione di tutto agio, ecco. Forse è chi vende che deve fare qualche tipo di ragionamento, perché è naturale che se avesse acquistato nel quinquennio 2000-2005 con i prezzi al massimo, certo, ovviamente si ritroverebbe, gli scoccia oggi anche a un po' a mettere sul mercato a che sconto oggi l'immobile, perché insomma sentiamo anche a volte delle percentuali che appunto possiamo anche ben comprendere che siano inaccettabili da parte dei venditori, no, dottor Vettore? Sì, però vede, Nel momento in cui oggi una persona, un soggetto, una famiglia dovesse porre in vendita il proprio immobile anche come dire, con uno sconto del 20%, 30%, 40% rispetto al suo acquisto del 2005, ipotizziamo. Magari però ne compra contestualmente un'altra. Esatto, deve tener conto che avrà lo stesso tipo di sconto nel momento in cui va a riacquistare. E non dimentichiamoci che il mercato nazionale, soprattutto della prima casa, è molto un mercato di scambio, ovvero io vendo una casa piccola e compro una casa un po' più grande, vendo una casa un po' più vecchia, compro una casa un po' più nuova, magari con gli impianti in ordine, magari con le certificazioni migliori, quindi con una qualità abitativa e di vita migliore. Quindi anche qui credo che ci siano molti freni di tipo psicologico, ma da un punto di vista oggettivo, se io vendo a sconto, compro a sconto, insomma. Quindi no, è che lei ci ha dato anche indirettamente un suggerimento molto concreto: l'investimento immobiliare, anche lì quando lo facciamo, anche se la casa che noi immaginiamo sarà quella della nostra vita, in realtà dobbiamo sempre farci venire un po' il dubbio che magari, esatto, nel giro di 5-6 anni. Voi come agente immobiliare, dottor Vettore, no, questi, adesso io ho sminuito un po' il suo ruolo, lei fa oggi un ruolo di consulenza un po' più ampio, un po' più alto, però insomma anche in questo passato forse l'agente immobiliare questi aspetti deve ricordarli. Da qui a 5 anni come ti vedi? Assolutamente, deve assolutamente ricordare. Guarda, io mi sono, come dire, quando facevo attività agenziale, mi ero inventato un codice che non esiste, lo chiamavo tasso di rivendibilità, nel senso che nel momento in cui uno acquista un immobile, anche se lo terrà per molto tempo, tenga conto che insomma un immobile si tiene mediamente 10 anni, 8-10 anni, a volte anche di più, però deve sempre rendersi conto che nel momento in cui si trovasse per necessità o per volontà a rivenderlo, deve chiedersi: avrò la possibilità di rivenderlo per dimensioni, zona, ubicazione, dimensioni o altro? E questo è da valutare sempre molto. Quindi un consiglio che mi sento di dare: nel momento in cui acquistate, fate finta per un attimo di dover un minuto dopo rivendere il vostro immobile. Siete disposti ad accettare una perdita di un tot, ma potrebbe anche essere un guadagno, perché io le faccio. Adesso dobbiamo sentire il traffico, Vettore, però io l'ho comprata la mia 12 anni fa, mai avrei pensato che mi costruissero la metropolitana Lilla proprio lì davanti, per cui a me è andata bene. Poi non che sia raddoppiato il prezzo dell'immobile, ma magari qualche cosina ha aiutato. Certo. Andiamo, traffico. Perché c'è gente che va con la macchina, non solo in metro. Cuore e denari. E allora oggi parliamo di casa, uno degli investimenti dopo i titoli di Stato preferiti da parte delle famiglie italiane. Abbiamo vissuto anni di boom all'inizio appunto del 2000, poi una fase di rovesci. Oggi mi piace utilizzare questo termine molto, molto importante, molto negativa, naturalmente determinata dalla crisi finanziaria degli ultimi anni, scaturita dagli Stati Uniti, che poi ce la siamo ritrovata sul groppone. Adesso c'è qualche timido segnale di risveglio, ma naturalmente con molta cautela. Ed è anche giusto, Bruno Vettore, nostro ospite di questa mattina, che sia così, perché alla pari di ogni altro tipo di investimento, anche quello nel mattone, anche se stiamo comprando la nostra prima casa, quella dove sogniamo, immaginiamo di stare per sempre, in realtà dobbiamo fare un investimento appunto facendoci tutte le domande del caso. 800 24 00 24, il numero verde se qualche ascoltatore appunto vuole intervenire in diretta. Naturalmente c'è chi solleva ancora la questione mutuo, c'è chi dice sì, la fate facile, ma in realtà io sono andato in banca, me il mutuo non l'hanno dato. Io direi, dottor Vettore, che è anche una buona cosa che un po' di selezione avvenga anche là, perché ritornare a quel fenomeno dei mutui dati al 100% e anche un po' di più sul valore della casa non è che abbia portato poi delle situazioni felici per molte famiglie. Assolutamente, sono completamente d'accordo con questa tesi, e un po' di selezione serve indubbiamente, soprattutto relativamente alla percentuale di intervento. Ecco, io ricordo che molti anni fa addirittura si poteva acquistare con interventi del 100% rispetto al valore dell'immobile. Credo che non sia corretto, perché nel momento in cui ci si avvicina ad un acquisto un 20-30% di acconto, penso che sia più salutare, tra virgolette, averlo. Quindi anche se c'è un po' di selezione, è importante. Ecco, io credo che le banche forse dovrebbero come dire, variare un po' la politica di credito, nel tener conto che oggi ci sono modalità di impiego diverse rispetto al tradizionale posto fisso, e quindi come dire, l'analisi della pratica e la politica di credito deve essere, a mio modo di vedere, piuttosto rigorosa nell'ambito del tasso di intervento, della percentuale di intervento, che non vedrei superiore al 70-75%. Consiglierei un pizzico di attualizzazione, diciamo, dell'analisi della clientela che si trova ad avere oggi contratti a termine piuttosto che attività, diciamo, di altro tipo. E sarà una platea sempre più ampia tra liberi professionisti e contratti a termine. Appunto, non possiamo non sollevare anche questo problema, tra virgolette, di carattere sociale, nel mondo del welfare, appunto, a cui il settore bancario deve necessariamente adeguarsi. È anche vero che adesso il settore bancario affronta un'altra patata bollente, anzi direi proprio molto delicata, no, dottor Vettore? Sì, la questione dei crediti inesigibili. Dobbiamo risolvere la questione anche in Italia, su come queste banche italiane devono cedere questi pacchetti di sofferenze che arrivano anche da prestiti non rimborsati, fidi bancari non rimborsati, aziende in crisi e molte famiglie che il mutuo non lo ripagano più, perché all'interno di questi pacchetti di sofferenze ci sono anche questi, per cui poi anche dall'altra parte chiaramente questo tema lo dobbiamo considerare. Assolutamente, credo che sia un'analisi anche questa assolutamente giusta. E, ecco, diciamo, non vorrei però esasperare troppo il tema del credito alle famiglie, perché io credo che molti crediti non più performanti nella realtà siano per linee di credito importanti, magari ad aziende o a imprese, come dire, con crediti ben più consistenti dei 50, 60 o 70 mila euro di mutuo per la prima casa dati magari a una giovane coppia. Cioè, ristabilirei un attimo l'ordine delle cose: i crediti inesigibili sono in parte per mutui non pagati dalle famiglie, ma in grande parte per linee di credito, diciamo, rilasciati in maniera un po' avventata, usare un eufemismo. Benissimo. Allora, Vettore, senta, come BV Invest voi avete messo a punto un indice di fiducia degli agenti immobiliari italiani. Sì. Ci spiega meglio cosa ci racconta questo indicatore, perché avete voluto farlo? Noi tante volte abbiamo parlato della nostra relazione con l'agente immobiliare. In una puntata recente c'è stata anche un po' di polemica, perché c'era una collega del Sole 24 Ore che in maniera molto candida ha detto: vabbè, se non lo volete pagare non prendetelo, no? Certo. E non le dico che cosa si è scatenato, appunto. Un putiferio. Adesso questo non è che si volesse dire non usare, ma ci mancherebbe altro. Io, se un mondo non lo conosco, mi avvalgo del lavoro di un professionista. Sul tema della percentuale sulla commissione si può sempre lavorare, anche lì abbiamo davanti un professionista con il quale si può negoziare, poi ognuno fa quello che vuole. Era venuto un po' crudo il commento, però questo era lo spirito. Detto questo, a che cosa vi serve questo indice che avete elaborato, Vettore? Guardi, noi abbiamo da qualche anno elaborato un indice che banalmente, rispetto a un panel di circa 5.000 agenti immobiliari che a vario titolo utilizzano le nostre attività, noi ci occupiamo di consulenza e di formazione, ogni anno noi facciamo, attraverso una survey con determinate caratteristiche legate alla privacy e a tutto quanto serve, poniamo delle domande a questo panel di relatori. Quella più indicativa e significativa è una domanda estremamente semplice che poniamo all'inizio di ogni anno, e in cui banalmente chiediamo: per la tua attività come sarà l'anno in corso? Ecco, mentre per il 2015 il 17% degli agenti immobiliari affermava che il 2015 sarebbe stato migliore del 2014, nel 2016 abbiamo posto la stessa domanda e il 22% degli agenti immobiliari interpellati ha affermato che il 2016 sarebbe stato migliore del 2015. Quindi diciamo, abbiamo rilevato 5 punti in più di tasso di fiducia. E per voi è significativo, insomma, questo piccolo aumento? È piuttosto significativo, anche perché, per completare la ricerca, il 22% affermava che il 2016 sarebbe stato migliore del 2015, il 63% sulla stessa linea e solo il 15% peggiore del 2015. Ecco, quindi diciamo, penso che come indicatore di quello che avviene avviene poi nell'economia reale, nella vita di tutti i giorni, nelle transazioni, insomma nei rapporti con le famiglie che comprano e vendono casa, sia un dato di un qualche tipo di significato. Ecco, anche se l'agente immobiliare insomma sta più sereno, trasmette questo suo senso di serenità anche alla famiglia che sta seguendo in quel momento, quindi la trattativa presumibilmente si svolge anche al meglio. Vettore, le faccio sentire Alessandro da Genova cosa vuole commentare a proposito, è un agente immobiliare peraltro, a proposito di questo momento, di questo mercato. Alessandro, prego. Velocissimo, grazie. Salve, buongiorno. Ma io volevo fare una precisazione. Io mi occupo prevalentemente di seconde case, quindi investimenti sulle seconde case, che è un mercato ormai praticamente in decrescita, cioè l'italiano non vede più in Italia l'immobile come un investimento. Perché lì sì che il fisco pesa. Sì, picchia duro. E qui siamo in una situazione veramente di crisi, soprattutto dove l'italiano è ritornato a comprare all'estero. Soprattutto gli investimenti vengono fatti all'estero, non più in Italia, quindi in quei mercati dove gli indici di crescita sono magari più sostenuti. Di conseguenza, se non c'è un ritorno a una defiscalizzazione sull'immobile, il mercato immobiliare non riparte. Soprattutto mai. Quello della seconda casa. Grazie Alessandro. Vettore, mi pare condivisibile. Corretto, l'idea di Alessandro. Sì, certo. Le considerazioni che avevo fatto prima, sì. Infatti avevano come unica eccezione il mercato della seconda casa, della casa per le vacanze, che oggettivamente ha una come dire un supporto e un peso fiscale esagerato. E questo è vero, il collega ha detto bene, effettivamente c'è un mercato in aumento di italiani che vedono l'estero come potenziale acquisto, insomma, e lo fanno in misura piuttosto rilevante in questi ultimi tempi. Insomma, abbiamo fatto delle considerazioni di carattere generale, però secondo me due suggerimenti concreti sono usciti nel corso della trasmissione. Il tema è se in questo momento, grazie ai prezzi che sono scesi, il credito che è ritornato ad essere erogato dalla banca, carezzate l'idea di fare un investimento in questo mondo, sia che sia la prima casa, sia che sia la seconda, cercate sempre di immaginarvi in prospettiva da qui a qualche anno, lo venderò, non lo venderò, sono disposta a tollerare anche di nuovo una bella perdita sull'investimento, magari anche un bel guadagno. Vettore, intanto complimenti per la sua nuova attività, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo in autunno, chissà che non vada tutto molto meglio. Grazie a voi, è sempre un piacere. Lo sappiamo, siamo grazie. Irresistibili. Infatti torniamo domani. Grazie, grazie a Bruno Vettore, grazie. Buona giornata, arrivederci.